di Simone Spezia. Renzi in Parlamento per il programma dei 1000 giorni per le riforme. Sono disposto a perdere le prossime elezioni, ma non a perdere tempo. Sul lavoro, se la delega rallenta, pronti al decreto. In Ucraina prosegue la battaglia Donetsk, 3 civili uccisi. Il Parlamento di Kiev approva una legge per concedere lo statuto speciale ad Estem ed amnistia per i separatisti. Mentre in Iraq ripartono i raid americani, oggi vicino a Baghdad, per difendere le forze irachene. Caduti dal 7° piano muoiono un ragazzo e una ragazza di 20 anni a Milano. Lui l'avrebbe trascinata giù. Sconto per Berlusconi, alla ex moglie Veronica Lario non dovrà più versare 3 milioni al mese, ma 2. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete commentare in diretta lo potete fare al 349-238-6666 oppure scriverci a effettogiorno@radio24.it. Anche oggi, così come abbiamo fatto ieri, trasmettiamo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari, ospiti del padiglione della Regione Puglia. Ci raggiungerà più avanti nella seconda parte della trasmissione il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Con lui parleremo di tanti argomenti, a partire dalla situazione politica e poi parlare un po' anche del suo bilancio di 10 anni appunto da presidente della Puglia. Parleremo anche del TAP, del gasdotto, come sapete ce ne siamo già occupati ieri. L'altro tema che toccheremo tra poco sono le previsioni di Confindustria che stanno arrivando in questi minuti, ma prima di tutto il discorso di Renzi in Parlamento. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il Presidente del Consiglio rivendica il percorso delle riforme, l'unico in grado di tirare fuori il Paese dalla crisi. La gravità del nostro approccio ai 1000 giorni, spiega allora Renzi, nasce dalla consapevolezza forte e diffusa che al termine di questo percorso riusciremo non soltanto a capovolgere la storia di questa legislatura, ma a rimettere in pista l'Italia. Se perdiamo, avverte il Premier, non perde il governo, ma il Paese. Sentiamo Renzi allora. Dopo aver perso tanto tempo negli anni passati, ora abbiamo l'ultima chance per pareggiare i conti. E se perdiamo, non perde il governo, perde l'Italia. Ecco perché la gravità e la responsabilità del nostro approccio nasce dalla consapevolezza forte e diffusa che al termine di questo percorso dei 1000 giorni riusciremo non soltanto a capovolgere la storia di questa legislatura, ma riusciremo soprattutto a rimettere in corsa e in pista l'Italia. E l'Italia ha interrotto la caduta, ma non basta, non è sufficiente, dice ancora Renzi, di qui la necessità di intervenire su tanti settori del tessuto economico e sociale del Paese, a partire dal mondo del lavoro. Ascoltiamo questo passaggio. Questo è un mondo del lavoro basato sull'apartheid. Personalmente dico a quella parte di sinistra più dura rispetto alla necessità di cambiare le regole del gioco sul lavoro, che per come la interpreto io, la sinistra è combattere l'ingiustizia, non difenderla. Se la delega sul lavoro dovesse rallentare, siamo pronti al decreto, avverte Renzi, quindi la legge elettorale, nessun bulldozer, ma non è rinviabile, no però ad elezioni anticipate, poi fisco, giustizia, la RAI, sono disponibile a perdere consenso per le riforme, dice il Premier. Quanto alla legislatura, arriveremo al 2018, da Renzi, solo retorica, commenta Brunetta. Forza Italia, una buffonata quella di Renzi, spiegano dal Movimento 5 Stelle, tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta e sentiamo cosa ne pensa Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, cosa ti è parso del Renzi di oggi? Ma mi è sembrato un Renzi determinato, tono molto battagliero, ma nella sostanza un Renzi che ha parlato all'Europa, ha dato all'Europa alcune delle garanzie che gli vengono richieste. L'orizzonte temporale dei 1000 giorni per le riforme è stato ribadito con forza, è stato detto che piuttosto che non fare le riforme è meglio perdere il consenso. Ci sono una serie di assicurazioni sulla pubblica amministrazione, sul lavoro, sulla riforma del lavoro, che è quello che un'Europa preoccupata per l'Italia in questo momento vuole sentirsi dire. Quindi sia pure nello stile e nel linguaggio di Renzi, anche spavaldo, ma un po' meno spavaldo del solito, mi pare che sia un Renzi che tiene conto del quadro generale e soprattutto dei dati dell'OCSE sulla stagnazione, anzi la recessione italiana. Allora, grazie a Stefano Folli, e per commentare le parole di Renzi sul lavoro io saluto Cesare Damiano, che è presidente della Commissione Lavoro della Camera, dalla quale dovrà passare appunto la delega sul lavoro. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Anzi, bentornato. Allora, dice Renzi, procediamo per decreto se il Parlamento non si sbriga. Come giudica? Beh, diciamo, non è proprio una dichiarazione carina nei confronti del Parlamento. In ogni caso, per quanto riguarda la delega, come sappiamo, in discussione al Senato, il punto è vedere se c'è un accordo sui contenuti, sui passaggi e sui tempi. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo intenzione di accelerare i tempi, perché l'obiettivo è quello di consegnare la delega entro all'inizio di novembre, in modo tale che al terzo passaggio, perché io spero che sia Senato, Camera, Senato, sia approvato. Però c'è un problema ovviamente di contenuti. A proposito di contenuti, Damiano, tra un attimo parleremo anche di una lettera che ha inviato lei oggi al Presidente della Repubblica. Dice Renzi, sempre in Parlamento, se saremo, dice, rispetto il dibattito parlamentare, ma anche le esigenze che ci arrivano dagli imprenditori, e dice che serve un messaggio di semplificazione sul tema del reintegro in caso di licenziamento, e qua andiamo a parlare naturalmente sull'articolo 18, sul quale mi è sembrato di capire che lei abbia intenzione, e una componente del Partito Democratico, di dare battaglia al governo. Ma sulla questione del reintegro io mi limito a dire che il tema, l'articolo 18, non è il tema della scrittura del 1970, quella dell'origine. Abbiamo un articolo 18 riformulato nel 2012, al tempo del governo Monti. Già all'epoca ci fu un confronto anche aspro fra Forza Italia e il Partito Democratico, che portò ad un compromesso, ad una innovazione. Però lei sa, però lei sa, conoscendo molto bene il tema, essendo stato tra l'altro sindacalista, occupandosi di queste cose da tempo, che per come è stato riformulato è molto complicato, di complicatissima applicazione, come è formulato adesso l'articolo 18. Un conto, come si dice, è la formulazione complicata, che può essere resa più semplice. Un altro conto è la modalità con la quale si esercita un diritto. Noi abbiamo parlato, e l'ho fatto anche Renzi, di modello tedesco. Tengo a precisare che 2 anni fa, nel 2012, quando riformulammo l'articolo 18, copiammo il modello tedesco. Il modello tedesco prevede la reintegrazione del lavoratore. Naturalmente, come abbiamo fatto noi, c'è un doppio canale che prima non esisteva in Italia: il canale del risarcimento o il canale della reintegrazione nel luogo di lavoro. Quindi noi siamo già al modello tedesco. Invocare il modello tedesco e poi dire cose diverse da quello che dice il modello tedesco, secondo me è sbagliato. Dico anche che il modello tedesco, per quanto riguarda le regole del lavoro, diciamo lo statuto alla tedesca, si applica nelle aziende che partono dai 10 dipendenti, non dai 16 dipendenti come capita in Italia. Allora, quando invochiamo i modelli, prendiamoli tutti per come sono. Per come sono, in 10 secondi, quindi lei non intravede ulteriori spazi di modifica dell'articolo 18, a suo giudizio naturalmente. A mio giudizio lo spazio di modifica è uno spazio che deve guardare al modello tedesco. Guardiamo quello che succede in quella nazione, l'abbiamo già copiato, ci può essere una sospensione dell'articolo 18 per un periodo di prova anche lungo, abbiamo detto fino a 3 anni, nei quali l'articolo 18 non c'è, ma nel momento in cui un lavoratore viene confermato, un giovane assunto, ha dei diritti di suo padre. Ultima cosa, la lettera che ha scritto a Napolitano, se in breve ci può dire che cosa... Che ha scritto a Napolitano, al Presidente della Repubblica. Chi l'ha scritta? Ci hanno detto che aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica, lei, sì. No, io l'ho messaggio a Renzi. A Renzi, al Presidente del Consiglio. Stamattina? Sì, questa mattina, sì. Garantista, una lettera che si riferisce a Renzi, caro Matteo, con comincia così. Sì. In sostanza il contenuto di quella lettera che ho mandato a Renzi ricalca un po' le opinioni che le ho detto, nel senso che nella lettera ovviamente io sottolineo il fatto che ho sostenuto con entusiasmo quando Renzi dice non prendiamo ordini dall'Europa, così come sugli 80 euro ritengo che sia una buona misura l'innalzamento della stazione delle rendite finanziarie. Non vorrei che Renzi invece sul tema del lavoro creasse due mercati del lavoro, quello riservato alle vecchie generazioni e quello di serie B per le nuove generazioni. Io credo che anche le nuove generazioni debbano avere quei diritti che sono diritti di stile europeo già riformati 2 anni fa. Allora, grazie a Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro, e chiedo scusa agli ascoltatori, ci avevano mal informato, ci avevano detto che era una lettera per il Presidente della Repubblica. Continuiamo a parlare di economia perché sono stati appena diffusi i dati del Centro Studi di Confindustria, l'aggiornamento ai dati del Centro Studi di Confindustria. Andrea Viali sta seguendo la presentazione per noi. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo l'Ocse anche Confindustria rivede al ribasso, anche se in modo, c'è da dire, meno marcato, le stime di crescita della nostra economia. È confermata la recessione per il 2014, è previsto un calo dello 0,4% del nostro prodotto interno lordo, il PIL che però nel 2015 è dato in crescita dello 0,5%, quindi una stima più ottimistica rispetto a quella dell'Ocse che parlava dello 0,1%. Dati incoraggianti arrivano in particolare dai consumi delle famiglie e dalle esportazioni che sono previste in aumento sia nel 2014 sia per il prossimo anno, calano ancora invece gli investimenti che però dovrebbero ripartire nel 2015. Quanto ai conti pubblici, il rapporto fra deficit e PIL è previsto entro i limiti fissati dai vincoli europei, 3% nel 2014, 2,9% nel 2015. La ripresa sta in noi, sottolinea nella sua analisi il Centro Studi di Confindustria, che vede quindi spiragli positivi, ma sollecita anche politiche economiche e riforme strutturali, a partire da quella del mercato del lavoro, che siano in grado queste riforme di dare fiducia, ridare fiducia a famiglie e imprese in modo da spingerle a tornare ad investire nel futuro. Simone. Grazie ad Andrea Viali. Arriva un altro dato negativo intanto dalla Germania, perché c'è una nuova caduta per l'indice ZEV che misura la fiducia degli investitori. Rispetto agli 8,6 punti di agosto, a settembre l'indice registra un calo a 6,9, è il nono calo consecutivo per gli analisti, va ricondotto alle tensioni politiche in Europa. E proprio di queste tensioni andiamo ad occuparci adesso, perché ci spostiamo in uno dei campi di battaglia dell'Ucraina, ossia Donetsk, dove si trova il collega giornalista Mattia Sorbi. Ieri sappiamo, Mattia, che ci sono state altre tre vittime tra i civili. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, i bombardamenti sono molto forti, confermo anche le 3 vittime, iniziano fin dalla mattina a bombardare l'aeroporto, che è un po' diventata da mesi la roccaforte dell'esercito ucraino, che tenta di difendersi e così facendo di non mollare la città, di non lasciarla definitivamente. E purtroppo queste bombe hanno provocato in alcune zone della città, alcune zone abbastanza grandi della città, la mancanza di acqua, in quanto i missili hanno comunque anche, ci sono dei problemi a Makhievka, che è fuori da Donetsk, e sono saltate delle tubature abbastanza rilevanti nella città. Ascolta, tu sei in quella zona da tempo. Oggi il Parlamento di Kiev ha votato a favore di uno statuto speciale per alcune zone dell'est e si è parlato di una possibile amnistia per i cosiddetti ribelli. Secondo te è una mossa in grado di allentare la tensione nelle zone, o la situazione ormai è talmente esasperata che i combattimenti andranno avanti? Secondo me è appunto un tentativo che andava fatto da parte del governo di Kiev, e purtroppo la reazione qui nel Donbass a livello locale, appunto dove ci troviamo, la regione si chiama Donbass, e a Donetsk, dove c'è il comando centrale degli insorti, purtroppo da ieri sera questa offerta è già stata rifiutata, ed è una mossa molto forte da parte dell'esercito ribelle filorusso, perché comunque queste persone non sono così supportate oramai, diciamo, a livello proprio russo da Putin. Stanno grazie al ceasefire, grazie al cessate il fuoco che comunque è stato siglato a Minsk, non è che i patti di Minsk del 5 settembre non stiano funzionando. Sì. La situazione del Donbass, la situazione di Donetsk, sì, è un'eccezione all'interno di questa situazione generale, sì, che non è più controllabile. La situazione, allora, qui è impazzita. Allora, ti ringrazio, grazie a Mattia Sorbi, torneremo a sentirti naturalmente sia in Effetto Giorno che in altre edizioni del GR della nostra informazione, e un saluto di nuovo a Gian Andrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa, commentatore per Il Sole 24 Ore, ormai fidanzato di Effetto Giorno, per così dire. Gian Andrea, bentornato. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Per un breve commento sull'inizio dei bombardamenti, altra zona di tensione naturalmente, dei raid americani sull'Iraq, o meglio, i raid erano già iniziati da tempo, però oggi gli americani sono andati a colpire i dintorni di Baghdad. Operazione militare dunque iniziata, Gian Andrea. Sì, un'operazione più che altro simbolica. Oggi hanno colpito le formazioni dello Stato Islamico nei dintorni di Baghdad, dando una mano all'esercito iracheno, che sappiamo essere in gravissime difficoltà in questo settore. La notizia dov'è? In realtà gli americani avevano cominciato questi raid aiutando soltanto i curdi nella zona settentrionale, anche perché nel capoluogo del Kurdistan, Erbil, c'erano già presenti centinaia di cittadini americani, quindi quello poteva sembrare un tipo di raid più teso a proteggere i cittadini americani. Però già da 10 giorni gli americani hanno cominciato a colpire anche su un'area più vasta, come intorno alla diga di Adita e nella provincia di Al-Anbar, e oggi per la prima volta nei dintorni di Baghdad. Beh, direi che è il segnale di questa coalizione che militarmente mi sembra un po' debole, devo dire anche un po' raffazzonata, tanti paesi, inclusi quelli che aiutano e hanno sempre supportato i gruppi jihadisti, incluso lo Stato Islamico, ma che si fonda sull'intervento militare dall'aria e che per ora è affidato alle forze americane, che cominciano ad aiutare tutti gli attori presenti sul territorio, quindi non solo i curdi ma anche le forze irachene, probabilmente anche le milizie sciite che sono impegnate a combattere in Iraq, non ancora in Siria, in Iraq le milizie dello Stato Islamico. Grazie anche per oggi a Gian Andrea Gagliani. Traffico. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Anche Confindustria rivede al ribasso le stime sul PIL, meno 0,4% nel 2014, lieve crescita dello 0,5% nel 2015. Renzi in Parlamento, per le riforme sono disposto a perdere le prossime elezioni ma non a perdere tempo. E sul lavoro, se la delega rallenta siamo pronti al decreto. In Ucraina prosegue la battaglia Donetsk, sono 3 i civili uccisi, il Parlamento di Kiev approva una legge per concedere statuto speciale ad est e amnistia per i separatisti. Secondo la FAO è a portata di mano il dimezzamento della fame nel mondo entro il 2015, 100 milioni di persone salvate negli ultimi 10 anni. E veniamo alla cronaca adesso, la cronaca che arriva da Milano, dove 2 ragazzi sono caduti o si sono gettati, insomma si sta cercando di ricomporre il quadro investigativo, si sono gettati dal 7° piano e sono morti entrambi. L'avrebbe trascinata giù con sé in un volo dal 7° piano. Sarebbero morti così un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 19, precipitati da un palazzo nord di Milano. Intorno a mezzanotte i vicini hanno allertato la polizia dopo aver sentito le urla della giovane. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato i 2 nel cortile interno del condominio dove viveva il 20enne. La ragazza è morta sul colpo, mentre il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, i 2 si trovavano nell'abitazione del giovane insieme ad altre 2 persone, rimasti da soli. Avrebbero iniziato una discussione, al termine della quale il ragazzo si sarebbe buttato dal terrazzino, trascinando con sé la ragazza. Il giovane, nato in Brasile, adottato da una famiglia italiana, aveva già tentato il suicidio 1 anno fa, ma era stato fermato grazie all'intervento dei vigili urbani. L'ipotesi quindi è che si tratti di un omicidio-suicidio. Gli investigatori intanto stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. E restiamo su un fatto di cronaca, un fatto avvenuto ieri, ve ne abbiamo parlato quasi in chiusura di trasmissione, nella vicenda di un imprenditore edile che ha ucciso 2 suoi ex dipendenti. Secondo quanto ha raccontato, sarebbero venuti a chiedergli degli stipendi arretrati e così racconta lui, naturalmente minacciandoli. Le indagini sono in corso e però questo ci consente di aprire una finestra sulla situazione dell'edilizia. Maurizio Di Cosmo, segretario generale della CGIL di Fermo, proprio di quella zona, innanzitutto la saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, partiamo dalla cronaca però. Io so che questi due operai, così avete raccontato, si erano rivolti anche a voi per questo problema che avevano con il loro datore di lavoro. Sì, avevano degli arretrati da ricevere, però ecco, la cosa non si è risolta se non ecco con richieste reiterate di indennizzo, insomma, di pagamento del lavoro svolto. La cosa non si era risolta, poi li abbiamo persi di vista, insomma, da qualche mese. Sappiamo che si sono rivolti a qualche altra organizzazione sindacale, comunque la vicenda per noi non si era chiusa. Per voi non si era chiusa, nel senso che appunto avevate mandato sostanzialmente queste richieste di pagamento che non erano state soddisfatte. Vorrei capire dalla vostra percezione, lettura del territorio, naturalmente non casi che sfociano in situazioni di questo genere, però quante situazioni di questo genere ci sono? Insomma, stiamo parlando di un settore che è stato quello forse colpito più intensamente e per certi aspetti più dolorosamente dalla crisi. Sì. Il settore edile subisce una caduta verticale proprio perché mancano gli investimenti pubblici, i comuni sono bloccati dai tagli dei trasferimenti e dal patto di stabilità e quindi il settore ne ha risentito, chiaramente con un calo anche degli investimenti privati. Il problema è che questa situazione sta imbarbarendo non solo questo settore ma anche altri settori a partire dai servizi. L'evento di ieri, la tragedia di ieri, noi lo rappresentiamo come un sintomo di una situazione di sofferenza molto più vasta, perché nelle sedi sindacali quotidianamente si rivolgono tantissimi lavoratori, chi perde il lavoro, chi ha lavorato e non viene pagato, chi è stato licenziato e non riceve il trattamento di fine rapporto. E tanti altri casi che denotano appunto una situazione di grande sofferenza. A questo noi stiamo chiedendo sia per il nostro territorio ma anche a livello nazionale un vero intervento di politica industriale, di rimissione di liquidità nel sistema economico, ecco, da parte di scelte del governo, e noi qua stigmatizziamo invece che Parlamento e Governo sono affaccendati in tutte altre cose piuttosto che dare risposte a questi drammi. Allora, grazie a Maurizio Di Cosmo, segretario generale della CGIL di Fermo, anche per il suo racconto rispetto a questa vicenda di cronaca di ieri. Noi alleggeriamo un po' e passiamo a parlare di arte, perché si inaugura oggi e sarà aperta al pubblico da domani la mostra di Chagall a Milano. Adriana Fracchia, buongiorno, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu stai seguendo la presentazione, 220 opere, sono tante. Sì, anzi, sono anche di più perché 220 sono quelle della mostra Chagall, una retrospettiva 1908-1985 a Palazzo Reale, mostra promossa da 24 Ore Cultura, Gruppo 24 Ore e da Artemisia Group e curata da Claudia Zevi con la nipote di Chagall, Mère Meyer. Ma c'è anche una seconda mostra dedicata a Chagall, perché le opere erano davvero tante e quindi saranno in tutto circa 300, al Museo Diocesano sempre di Milano ci sarà questa mostra Chagall e la Bibbia, che riguarda appunto un altro settore di opere, che di opere proprio dedicate alla Bibbia da Chagall. È una mostra davvero imponente, veramente interessante, e è la prima retrospettiva di questa imponenza mai realizzata in Italia negli ultimi 50 anni e tra l'altro dopo Milano questa mostra verrà trasferita al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles. Grazie, grazie alla nostra Adriana Fracchia in collegamento appunto alla presentazione della mostra di Chagall. Prima di andare in pausa e poi sentire la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione ospiteremo da qua, dai nostri studi alla Fiera del Levante di Bari, il presidente della regione Nichi Vendola, una notizia che arriva dal tribunale che riguarda Silvio Berlusconi, ma in questo caso non altre vicende se non quelle matrimoniali. Non più 3 milioni di euro al mese, ma 2, si riduce l'assegno che deve versare alla moglie, alla ex moglie Veronica Lario. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano, era stata la stessa Lario, lo ricordiamo, ad avviare nel 2012 la causa di separazione davanti ai giudici del Tribunale del Capoluogo Lombardo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Renzi in Parlamento dice l'ultima chance per l'Italia, se perdiamo perde il paese, e sul lavoro, se la delega rallenta siamo pronti ad un decreto. Anche Confindustria rivede al ribasso le stime sul PIL, meno 0,4% nel 2014 e quindi sarà recessione, lieve crescita dello 0,5% nel 2015. Il Parlamento ucraino ha approvato una legge per concedere lo statuto speciale ad Est e amnistia per i separatisti, ma a Donetsk i combattimenti non si fermano. 3 civili uccisi nella notte. In Iraq intanto ripartono i raid americani e ripartono da Baghdad per difendere le forze irachene. La borsa. Borse in diretta. E la giornata è negativa anche oggi, meno 0,48% il FTSE MIB, meno 0,49% il FTSE All-Share, negative anche Francoforte, giù dello 0,33%, Parigi di mezzo punto percentuale. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai i mercati vanno male oggi? Ma prevale sempre la cautela in vista della riunione della Riserva Federale Americana che si terrà oggi e domani e da cui si aspettano lumi sull'evoluzione della politica monetaria statunitense. C'è cautela anche in vista del referendum sull'indipendenza della Scozia che si terrà giovedì. Difficilmente i listini torneranno a salire prima di questi due avvenimenti. Per quanto riguarda i settori c'è qualcosa che domina in questa giornata? Ma guarda, le banche sono in ribasso complessivamente, il Monte dei Paschi perde circa il 3%, per quanto riguarda i singoli titoli, forti vendite su Yux che perde il 5% e paga la debolezza della concorrente Asos che a Londra perde il 9%, va giù anche Azimut, meno 3,2%, che sconta il taglio di giudizio da buy a hold da parte degli analisti di Equita. È debole anche Telecom Italia, meno 1,6%. Oggi Sulle 24 Ore scrive che la società sta considerando un'alleanza fra la controllata TIM Brasile e la concorrente Carioca OI. Gli analisti sottolineano il rischio a breve rappresentato da un'operazione che diluirebbe il controllo di Telecom. Euro a quota 1,2945, noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo e qua dai nostri studi della Fiera del Levante avremo ospite il presidente della Puglia, Nichi Vendola. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia, benvenuto. Grazie. Qua dagli studi della Fiera del Levante, ospiti tra l'altro del padiglione della Puglia, vorrei partire dal discorso di Renzi questa mattina, vorrei capire un po' che giudizio ne dà. Ma diciamo l'impressione è che siamo ancora alla produzione di annunci, al tentativo di dilazionare il tempo della verifica. Il rapporto tra promesse e realizzazione è abbastanza mortificante. Nella girandola propagandistica e pubblicitaria che assorbe tanta parte degli sforzi comunicativi, abilissimi sforzi comunicativi del nostro Premier, quello che diciamo fa veramente fatica ad emergere è il senso del passo dopo passo, di qual è il cammino reale, dov'è che comincia il cambiamento, no? Il cambiamento è sempre gigantesco, ma è dietro l'angolo, è là l'angolo è sempre un metro o un chilometro più in là. Il fatto che si sia passati dai primi 100 giorni e siamo a 207 giorni di scarse realizzazioni ai primi 1000 giorni sembra un tentativo, diciamo, di spostare sempre in avanti la verifica della realtà. Senta, c'è un tema sul quale volevo sollecitare, cioè questa idea che ha detto Renzi, ha detto di diritti civili parliamo alla fine dei 1000 giorni. Ma francamente è inaccettabile la modalità con cui questo paese tenta di affrancarsi dal punto di vista del ceto politico da ipoteche medievali, no? Da quella puzza di clericalismo, di oscurantismo che ha portato, diciamo così, nella vita politica il veleno dell'intolleranza attraverso le battute della Pascale, il fatto che magari Dudu si sia iscritto all'Arcigay, mentre sullo sfondo ci sono problemi che riguardano la maturità di diritti che in Italia, all'ultimo posto nella classifica europea della possibilità di esercitare diritti civili, invece di parlare con serietà, noi anche qui grandi annunci, niente di concreto. Siamo un paese in cui la fecondazione assistita, il testamento biologico, le coppie di fatto sono grandi questioni che appartengono al cazzeggio universale, alle promesse senza mai un punto di ricaduta nella realtà. Senta una cosa, al di là delle questioni di cazzeggio universale, per così dire, c'è invece un fatto concreto. Questo prefetto di Bologna che contro il sindaco Virginio Merola gli dice no, voi i matrimoni omosessuali non li potete registrare. Ma immagino che sia stato rimosso dal ministro degli interni questo prefetto. Da rimuovere di secondo lei? Secondo me da rimuovere immediatamente, forse da rimuovere anche il ministro degli interni. Senti una cosa, allora sta finendo il suo mandato, il suo secondo mandato da presidente della Puglia. Io so che è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però vorrei capire un attimo come si sente e anche che cosa farà dopo. Ma quello che farò dopo io non è rilevante, intanto sono, diciamo... Però permette un po' di curiosità anche. Sono molto impegnato perché sono il leader di una formazione politica, per quanto piccola, ma una formazione che ha in questi ultimi tempi guadagnato il centro della scena politica per la battaglia contro le controriforme costituzionali. Con 7 senatori siamo riusciti, e con grande garbo, senza arrampicarci sui tetti, senza introdurre uno stile violento e greve, siamo riusciti, rispettando le istituzioni, a provocare un dibattito vero che ha consentito all'Italia di capire qualcosa su che cosa ci fosse dentro la rubrica riforme costituzionali. Quindi io sono capo di questo partito, mi dedicherò un po' di più alla cura, alla costruzione di questa comunità politica, ho tanti impegni editoriali, devo scrivere dei libri, devo viaggiare, devo studiare, devo pensare, devo ritornare a scrivere poesie. In tre parole, cosa pensa di aver lasciato in Puglia? Ma il segno di una regione che non esisteva, che era una periferia sconosciuta e che oggi è un brand di qualità in tutto il mondo, un'immagine, una visione, una volontà che si è fatta sistema e che ha provocato l'abbattimento dei muri della pigrizia culturale in tutti i settori. Lei lo sa che 90 su 100 il prossimo presidente di questa regione è Emiliano, le dispiace? Ma io penso che sono portatore di un'esperienza. 90 su 100 il 2005 io avrei perso le elezioni primarie. 90 su 100 il 2010 potevo anche perdere le elezioni primarie. E 90 su 100 il 2005 e il 2010 dovevo perdere le elezioni secondarie. Io sono la prova, diciamo così, che esiste Davide e può sconfiggere Golia. Senta, il TAP, questione che a naso diventerà piuttosto centrale nei prossimi mesi, c'è già in ballo la protesta dei sindaci per questo gasdotto, lo ricordiamo agli ascoltatori, che deve arrivare dall'Azerbaigian in Puglia, c'è già in ballo, lo sappiamo, la protesta dei sindaci. Voi proporrete di spostare il punto di approdo del gasdotto oppure no? Noi faremo tutto quello che è nei nostri poteri perché ci sia un momento di resipiscenza da parte del governo centrale. Non abbiamo mai detto un no pregiudiziale al tubo, ai gasdotti o alle grandi opere. Abbiamo detto che il giudizio deve essere organizzato a partire da due ingredienti fondamentali, la validazione scientifica e la validazione democratica. Ogni progetto deve avere un livello di valutazione di tutti i suoi impatti che diciamo ci deve mettere al riparo da qualunque rischio. Siamo figli della cultura del principio di precauzione e questo vale tanto più quando si tratta di un territorio di pregio come San Foca Carmelo. Perfetto, perfetto, però nel momento nel quale il governo dice questo gasdotto noi lo facciamo arrivare, voi non avete da questo punto di vista potere di veto, perché in sostanza è un'infrastruttura strategica, quindi decide il governo, bisogna accordarsi in qualche modo con l'esecutivo, no? Noi non ci accorderemo, noi faremo rimbalzare sull'esecutivo la necessità di approfondire il tema delle alternative localizzative. Benissimo, quindi ragionare su altri luoghi nei quali possa approdare il gasdotto. Ragionare insieme alla comunità scientifica. Agli esperti, a coloro che effettivamente conoscono, ma pare normale immaginare che un'opera strategica che costa miliardi di euro, che ha questo rilievo, debba essere presentata in questa maniera. Pare normale che però mi scusi, TAP originariamente aveva proposto e ha detto signori, noi abbiamo più o meno 10-11 luoghi in Puglia dove possiamo far approdare il gasdotto, non si poteva far scegliere un luogo un po' diverso, come dire, indicarlo a TAP un luogo TAP un po' diverso. TAP ha lavorato innanzitutto sul sito di Lendinuso, era un sito diciamo proibitivo a causa della presenza della Poseidonia, diciamo vi era una barriera naturale insormontabile. TAP si è concentrata successivamente sul sito di San Foca Melendugno, ma diciamo mi pare che la fantasia sia stata scarsa. Però allora, per chiudere, dato che adesso purtroppo dobbiamo chiudere, proporrete al governo un altro luogo, questa è la sostanza. Altri luoghi. Grazie a Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Pietro Lacorte e Davide Ciocia per la parte tecnica qua a Bari dalla Fiera del Levante, a Laura Faggini in assistenza e in redazione. In assistenza a Milano invece c'era Alessandro Marco Tulli e in regia Gianmarco Ferronato. Grazie a tutti dunque, così come a tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci. La trasmissione torna come sempre domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.